Allora, la nostra, come dire, maledizione è quella di dover vivere in una situazione di inganno. Noi crediamo che le cose stiano in un certo modo o solo in un'altra. La ragione per cui Proust lotta contro i due tipi di idoli, cioè, ho capito, la mondanità slash snobismo e l'altro l'amore, è perché sia mondanità che amore ti portano a vivere nella finzione. Prendiamo ancora il primo e fondamentale punto. Lei non prende appunti. Lei non li fa. Dunque, prendiamo il caso appunto della mondanità. Se tu vivi nella mondanità, noi lo vediamo tutti i giorni alla televisione, noi vediamo che le persone si atteggiano per essere guardati. Prendiamo una delle cose più orrende, squallide, deformanti di questi ultimi anni di vita semipubblica che possiamo fare mettendo a contatto del mondo esterno, eccetera. Prendiamo quella trasmissione che si intitola Il Grande Fratello, no? Ecco, ti dice tutto, insomma, pensate la falsificazione continua, istintiva che c'è, ma pensate tutti i personaggi che in televisione vanno per essere guardati e non per essere se stessi, cioè questa recitazione collettiva. Lo snobismo comporta una recitazione e falsificazione. Ecco perché la vita mondana e lo snobismo conseguente vengono ritenuti ai tempi di Proust così assolutamente pericolosi. Lo scrittore deve andare in senso opposto. Cioè, se mondanità vuol dire frequentare salotti, e allora li frequentavano spessissimi salotti, ogni sera, ogni giorno, la mattina, voleva dire espandersi nella società, lo scrittore doveva per contro vivere le due parole che vi ho detto, dans l'oscurité e dans le silence. Les vrais livres sont les enfants de l'oscurité et du silence. In questo mondo così portato all'esibizione, colpirà tutti e molto. Colpisce e colpirà tutti molto, anche una persona non cattolica come me, queste dimissioni del Papa, che vanno esattamente nel segno dell'oscurità e del silenzio. Solo che come tutti i grandi avvenimenti della vita, noi non siamo in grado spesso di recepirli subito, no? Non so se l'avete avuta questa esperienza, ma quando ti capita qualcosa di molto grave, la morte di una persona cara, di un genitore, tu naturalmente ci soffri enormemente e poi il dolore per una sorta di autoterapia che ci procuriamo, lì per lì tende a diminuire, salvo il fatto che poi ritorna. Ho sempre avuto questa immagine che di fronte ai grandi fatti della nostra vita siamo come delle formiche nei confronti di un sasso che hanno davanti. Che cosa vedono una formica nel sasso, che è un sasso così, la formica è piccola così? Che cosa vede di quel sasso? Vede soltanto una piccola parete di pietra e non vede la fine del sasso. Le malattie, le morti, gli esili sono i grandi fatti della nostra vita che noi non possiamo vedere completamente, mi intendete? Perché se li vedessimo completamente saremmo travolti dalla stanchezza, abbiamo bisogno di prenderci un cappuccino. Questa frase mi pare molto bella. Noi non possiamo soffrire più di tanto. Abbiamo bisogno di prenderci un cappuccino. Scrivetevi questa frase a capo del letto. Senza cappuccino non si vive. Non si vive. Abbiamo bisogno di prenderci un cappuccino. Quindi nello snobismo e quindi nella mondanità, nella vita mondana, ci si aliena, questa parola marxisticamente diventata, cioè non si è più padrone di se stessi, d'accordo? Così nell'amore, questo è l'altro titolo. Facevamo delle considerazioni ieri. Che oggi possiamo corroborare con questa affermazione un po' alla Wilde, e quindi un po' futilmente paradossale, ma un po' vera. E se non avessimo mai amato nessuno, ma le persone fossero state semplicemente degli strumenti del nostro sentirci innamorati. La cosa è meno sconvolgente di quel che poi si può immaginare. Un essere umano vive per se stesso. Un essere umano vuol sopravvivere. Ma come la madre con un figlio? Ma perché una madre ha un figlio? Perché è bellissimo amare qualcuno. È semplicissimo. Perché uno ama un'altra persona? Perché è bellissimo sentirsi innamorati. Ma l'amore è un'esperienza anzitutto di solitudine. Noi siamo a contatto con questo io che ha piacere. Conosciamo realmente l'altra persona? Proust arriva a delle conseguenze molto suggestive di questa teoria solipsistica dell'amore. Cioè dice, dell'altro, del compagno, del partner, dell'oggetto d'amore, non ci importa assolutamente nulla. Perché? Perché è semplicemente l'oggetto dell'amore. Nella recherche, nella parte che noi leggiamo, la parte centrale, fondamentale, la prisoniera prima e la fugitiva dopo, si descrive poco o nulla in questi due meravigliosi romanzi. Poco o nulla. C'è un uomo, il narratore, che ama una donna, una ragazza, ma quanto l'uomo è uomo e ancora ragazzo, vedremo tutto questo. O meglio, dice che l'ama. E sicuramente è geloso di questa ragazza. Quindi dice a se stesso che l'ama e sicuramente è geloso. Quanto a lei, quali sono i sentimenti che lei prova nei di lui confronti? La novità sconvolgente del discorso proustiano è che non viene minimamente considerato il punto di vista di lei. Se noi andiamo a vedere tutta la grande letteratura classica e anche la letteratura moderna, noi vediamo che prendiamo un sommo libro di qualche decina d'anni precedente, Anna Karenina, lo conoscete tutti, è una storia d'amore fra Anna Karenina e Vronsky, e sono noti i punti di vista sia di Anna Karenina che di Vronsky. Prendiamo Madame Bovary, mi auguro che lo conosciate tutti, perché potreste essere fucilati qui in mattina. Noi conosciamo il punto di vista di Anne Bovary e il punto di vista di Charles e quello di Léon che si è rotto le scatole di Emma e quello di Rodolphe. Chi ha seguito il corso sulla Bovary? Qui invece il punto di vista di Albertine non lo conosciamo. L'altro non conta. Ecco perché l'amore, dicevamo, è una situazione di alienazione, che ci riconduce a un discorso più generale, che è quello delle apparenze in cui noi siamo, in cui ci aggiriamo. Questo è un concetto cardine della cultura moderna, no? Il concetto di apparenza. Sarebbe bello poter diffondersi sull'argomento. Possiamo dire che è un concetto antichissimo. La verità sta dietro e quel che vediamo è un'apparenza. A chi risale questo concetto qui? A un filosofo e a Platone, bravo. Cosa racconta Platone nella Repubblica? Il mito famoso della caverna, in cui ci sono degli schiavi che guardano delle persone che si muovono dietro, ma loro vedono semplicemente delle ombre, non vedono la realtà. Noi nel corso della vita siamo costretti infinite volte a dire: mi sono sbagliato, credevo che questa cosa fosse così e non è così. Quante volte siamo costretti a dirlo? A dire una frase di questo genere: mi sono lasciato ingannare dalle apparenze. Quindi le apparenze sono molto pericolose. Sul tema dell'apparenza c'è un dibattito filosofico straordinario. Uno dei due grandi massimi scrittori del Novecento italiano è Pirandello, l'altro è Carlo Emilio Gadda. E pensate l'apparenza quanto... Avete presente Pirandello? Oddio! Sì, la presente Pirandello. Ecco. Quanto il tema dell'apparenza è importante. Una commedia. Insomma, commedia. Di Pirandello si diceva: così è se mi pare. Bisogna andare al di là dell'apparenza. Sentite quello che è capitato al narratore della Recherche, ancora a proposito di questo tema, che snobismo e amore ci fanno vivere in un'alienazione, no? Crediamo che le cose stiano in un modo e poi sono in un altro. Quindi bisogna andare al di là dell'apparenza. Ha capito bene? Bisogna andare al di là dell'apparenza. Lui a casa, il narratore, nella casa di Combray, Combray è il paese dove nel romanzo va la famiglia a passare le vacanze. Il paese nella realtà si chiama Illier. Poi per la fama che ha avuto si è stato intitolato Illier Combray, per cui se voi arrivate in treno da Parigi vedete in questa stazioncina vedete scritto Illier Combray. Sono stato lungamente più volte. È un posto stranissimo, non c'è nessuno, silenziosissimo, i negozi sono aperti ma non c'è nessuno. Quando lui, il narratore, andava con lei, se usciva da una parte della casa andava in una direzione che si chiamava la direzione di Meseglise. Lì c'era la casa di un amico dei genitori che si chiama Swann. Se andava in un'altra direzione, opposta, andava invece nella direzione dei Guermant, una famiglia della di una delle maggiori nobiltà francesi, la famiglia ovviamente più nobile dei intorni. Avete capito bene? Quindi, se andava, immaginiamo, verso sud, andava a Meseglise, a nord andava verso i Guermant. Sud, nord, immaginiamo questo. Meseglise esiste nella realtà. L'ho visto. Si chiama Meseglise. Solo che siccome mer fa pensare alla merda, lui ha eufonizzato e ha messo Meseglise. Il nome Guermant esisteva, non Guermant, Boussancourt de Saint-Emant, che diventano Guermant. Alla fine della Recherche, Gilbert, una delle donne del narratore, gli dice: a me gli occhi, ragazzi, gli dice: andiamo a Meseglise passando per Guermant. E lui rimane sbalordito. Sarebbe come se io dicessi: siamo a Roma, andiamo a Firenze passando per Napoli. Se uno dicesse: andiamo a Firenze passando per Napoli, lei cosa direbbe? Sei pazzo. Allora lui dice a Gilbert: dice, ma stai scherzando, sono dalla parte opposta. E Gilbert dice: ma tu sei pazzo, non stanno dalla parte opposta. Sono disposte a triangolo. Qui c'è Combré, qui c'è Méséglise, qui c'è Garbant. Non erano affatto agli antipodi, ma lui immaginava che fossero agli antipodi. Questo è un inganno tipico. Prendiamo un altro caso di inganno che si affianca agli altri inganni, quelli che ci arrivano dalla mondanità, snobismo, eccetera. C'è un amico del narratore che si chiama Saint-Loup, Robert de Saint-Loup. Bello. Bello, intelligente, brillante, ha tutto. Sono quelli che le donne, quando capita una riunione, insomma, vedono subito la eventuale disponibilità, hanno dei... insomma, immaginiamo che Angelica qui trovasse questa sera, tornando a casa, trovasse, è un po' grandicello per lei come età, ma insomma, trovasse Giorgio Clooney, ecco. Non che le offro un caffè, ma insomma, Giorgio Clooney. Questo uomo bellissimo si suppone, si sa che ha molte donne. È naturale. Se non che a un certo momento del romanzo si vede che Saint-Loup è omosessuale. Una persona di età della generazione superiore, antecedente a quella del narratore, Charles, il fratello della duchessa di Guermantes, è un uomo virile. Voi sapete cos'è un uomo virile? Peloso, uno come lei. Ecco, vediamo lui come lei si chiama, Michele, Alessio. Un esempio come lui di uomo virile. Charles, che cosa fa? Attraversa a nuoto un fiume gelato. Io voglio vedere a lei se attraversa il Tevere a nuoto. Quindi si può pensare che sia una manifestazione di virilità vivente. Viene fuori che Charles è omosessuale. Torneremo su questo fatto. C'erano, per stare alle parole di Proust, due razze, non sono razze, ma lui le chiamava razze, maledette. Una quella degli omosessuali e l'altra quella degli ebrei. Sulla parola razza ed ebraismo sapete quel che è successo nel corso del tempo. E chi appartiene a una di queste razze, dovete sapere, usiamo tra virgolette con quattro volte queste parole, tende a trovare tutte le persone intorno legate della stessa qualità, o ebreo o omosessuale. Io ho conosciuto un numero sterminato nella mia densa vita di omosessuali che dicevano: ah, ma questo che tu credi che sia una persona etero eccetera è omosessuale. Ora la cosa mi fa meno scandalo perché l'omosessualità negli ultimi 20 anni è diventata un fatto molto meno clamoroso, un fatto, ma prima la parola era impronunciabile, mentre per quanto riguarda l'ebraismo, insomma, il problema dell'ebraismo è un tema ancora attuale. Ci fu uno scrittore in Francia negli anni 60-70, si chiamava Roger Peyrefitte, e scrisse un libro, mi pare, che si chiamava Les Juifs, in cui parlava di tutta una serie di francesi importanti, notissimi, che erano in realtà ebrei. Proust tendeva a dire a quello omosessuale, quello ebreo, cioè cercava di trovare in qualche modo dei fratelli, e questo è uno dei motivi per cui c'è questa serie di ebrei e omosessuali nascosti che poi vengono fuori nella ricerca. Ma questo era per dirvi quella citazione delle due strade, la strada per Méséglise e quella per Guermantes, come noi viviamo appunto in un mondo di apparenza. Adesso dobbiamo toccare una cosa decisiva che riguarda la memoria. La memoria. C'è nel romanzo un tema che forse conoscete, sia pure chi non ha mai... Chi è che non ha mai letto la pagina di Proust? Chi è che ha letto una pagina di Proust? Benissimo. Allora, quelli che l'hanno letta conosceranno forse questa storiella. Quella della tazza di tè e della Madeleine. L'episodio è il seguente. Nella Recherche si racconta questo episodio che è tratto dalla vita reale di Proust. Una sera, tornando a casa, una sera d'inverno, fredda, il narratore riceve l'offerta da sua madre di una tazza di tè. La mamma gli dà a quest'uomo bambino, uomo mai diventato completamente adulto, perché una delle cose più affascinanti è questo slittamento dell'età. Quanti anni ha il narratore? Gli offre una Madeleine. Una volta le Madeleine in Italia non esistevano, adesso le trovate al supermercato. Peraltro sono pessime, le Madeleine vere sono, hanno un gusto vagamente di mandorla. E avete preso, chi è che ha presente le Madeleine che sono fatte? Ecco, ma lei sa tutte queste cose qua? Perché le mangia sempre? Non sempre. Ma come sono fatte? Mezza conchiglia. È un cappelletto, una mezza conchiglia. Potremmo anche definire, sembra una specie di sisa, se volete, una tetta, no? Ma perché hanno questa forma? Perché riproducono il cappello che avevano i pellegrini nel Medioevo che andavano in pellegrinaggio a San Jacopo di Compostella. Dovevano passare per forza nella zona di Combré. E quindi lì si facevano questi dolcetti. Va bene? Allora, la mamma del narratore gli dà una tazza di tè una sera con la Madeleine. E lui cosa fa? Immerge la Madeleine nel tè. Una piccola parentesi, che la buona educazione consiglia di non mettere il cornetto nel cappuccino a fare quella che qualcuno di voi chiamerebbe la zuppetta. Chi segue la buona educazione e non mette il cornetto nel cappuccino si perde la seconda gioia più alta della vita dopo la prima. La prima è quella là. Lei non ha capito? Non ha capito l'allusione? Ha capito l'allusione? Ma la seconda è quella del... Anche lei mi dirà, ma come, ma allora io mangio il cappuccino e il cornetto vicino? Vedrà negli occhi che la guardano biecamente, lasci correre. Sono persone che non sanno. Una volta ho incontrato, avevo un'amica che aveva girato il mondo perché era la moglie di un console, aveva veramente girato il mondo e si era stata qui a Roma e disse: io sono una credente, però devo dire che se un giorno mi salverò l'animo e andrò in paradiso. Questo veniva in un bar di Trastevere e troverò che in paradiso non ci sono i cappuccini e i cornetti che ci sono a Roma, in paradiso non ci voglio stare. Naturalmente c'è cornetto e cornetto, quelli di qui sono le ciofeche, spaventevoli, ma un cornetto caldo. Comunque, torniamo alla Madeleine. Intinge e in quel momento si sente felice. Si sente felice perché ha in mente un'altra scena. Non in mente, l'altra scena è viva, vicino a lui, in lui. Quando andava a trovare la domenica mattina a Combrega. Scusate, la prima scena non è questa che vi ho raccontato, non è a Combrega, è a Parigi. Va bene? Quando andava a trovare la domenica mattina in camera sua la nonna che lì gli offriva una tazza di tè o di tiglio con la Madeleine e lui inzuppava. E lui capisce che quel passato che non era riuscito a rivivere, perché il passato è morto. Un oggetto, un odore, un profumo, un sapore può restituirtelo. Questa scoperta è centrale. È quella che viene chiamata la memoria involontaria. Avesse tentato mille volte di ricostruire la scena di quando andava dalla nonna a prendere la tazza di tè, non sarebbe riuscito. Ci voleva una sensazione. Tutto questo emozionante richiede naturalmente molte considerazioni da parte nostra. Quanto sono importanti i profumi? Anzitutto il profumo, lo sapete, è essenziale dal punto di vista sessuale, no? Perché uno si innamora di una persona? Lo sapete questo, è scientificamente provato, per l'odore che ha, naturalmente non è un odore avvertibile, in certi casi, ma la spinta che ti può dare un certo odore è assoluta. Mettiamo una situazione di questo genere, faccio esempi sempre dalla vita reale per capirci. Quando avevo 18 anni, avevo una ragazza che ne aveva 20. Questa ragazza ebbe da me un dono, un profumo che si chiamava Fleur du Monde. I francesi all'epoca in cui avevo 18 anni io era già stato inventato. Sono passati 140 anni, più o meno, 140, 145 anni, non so bene dire. Un giorno, aggirandomi da queste parti, dalle parti della Nagnina, o tornando in rue, proprio girando intorno a una colonna della metro della Nagnina, quei colonnoni, quei pilastroni giganteschi, ho sentito un profumo che conoscevo benissimo, era quello. Sono rimasto folgorato. Erano una vita che non lo sentivo. E ho rivissuto, sia pure in un modo sfumato, ma al tempo stesso intensissimo, acutissimo, la sensazione che mi dava questa ragazza vestita di azzurro, con un vestito di lanetta azzurro, e come si usava in quegli anni, debitamente corto, a mo' di minigonna, quasi minigonna. Proust racconta episodi di memoria involontaria, più di uno nella Recherche. Un altro è questo. Si trova in una matinée, cioè in una festa mattinale, a Palazzo Guermant. E a un certo momento sente un tintinnio di un cucchiaino contro il piattino di una tazza. È un rumore anodino, un rumore paragonabile a quello che potremmo sentire migliaia di altre volte. Ma lui si ricorda di quando andava in treno a Balbec, dormiva, si svegliava Era l'alba, il treno era fermo in campagna e un ferroviere, un impiegato, andava a battere con un martelletto contro le ruote, evidentemente per sentire se tutto era a posto. Un'altra volta, mentre sta entrando a Palazzo Vermont, nel cortile, per una diseguaglianza del selciato, è come se cadesse, si inclina da una parte e ricorda di quando si è trovato a Venezia, a San Marco, e nel battistero per l'appunto si è trovato a mettere il piede su due mattonelle che si trovavano a livello diverso. Mi sentite bene? Sono dei momenti straordinari in cui il passato ritorna. Però questo posto che ha la memoria involontaria in Proust è stato, a mio avviso, misconosciuto e soprattutto frainteso. Se la memoria involontaria è lo strumento per conquistare il tempo perduto, allora la soluzione è lì a portata di mano. Basta aspettare un momento di memoria involontaria e noi troviamo un frammento di tempo perduto. Chiaro? Se non che questa memoria è involontaria, quindi non possiamo produrla. Quindi dobbiamo escludere che la memoria involontaria possa essere usato come strumento sistematicamente per trovare il tempo perduto. E allora che cosa significa? Significa anzitutto che l'involontarietà ha molta importanza per conoscere il reale. Cioè, naturalmente, per conoscere il reale occorre uno sforzo, una fatica, ma non basta. Verso la fine del secolo, dell'Ottocento, imperando il decadentismo, si comincia sempre più a credere che ci siano delle cose inconsce, sconosciute dentro di noi. Quando Freud scrive quel poco di roba che scrive, vedete, io tante volte ho avuto modo di dirvelo, un fatto culturale non è mai solo. La più mirabolante e incredibile scoperta avviene in un clima di scoperta. È chiaro? Quando Einstein scrive nel 1905 quelle poche pagine che sono la teoria della relatività ristretta, che poi viene successivamente ampliata 10 anni dopo, si parlava di relatività già da anni in filosofia e in scienza. Quindi nel caso nostro si parlava di forze inconsce, di non volontarietà già da parecchio tempo. Ne parlava per esempio Bergson, che è uno dei filosofi a cui, sia pure senza parlarne, parente di Proust, a cui Proust fa riferimento. La verità noi la capiamo, ma non solo pensando, non solo essendo attivi, propositivi, ma anche lasciandoci andare. È chiaro questo concetto? Facciamo un esempio che mi pare sull'utilità della involontarietà. Facciamo qualche considerazione che può esserci molto utile. Chi di voi ha avuto esperienza, sia pure per breve tempo, della psicoanalisi? Qualcuno l'ha fatta? Lei l'ha fatta. L'ha fatta sul lettino? No. Non so se è una psicanalisi freudiana, tipica. Ah, quello è un'altra cosa, però. Il metodo cognitivo comportamentale è un'altra cosa completamente diversa. Nella psicoanalisi, ma sa, lei lo dice con una sorta di rossore, è segno di intelligenza, Dire, fare una terapia analitica è un segno di intelligenza, questo non c'è dubbio. Io non mi aspetto che Berlusconi faccia un'analisi, pensi che cosa troverebbe Berlusconi in una sua psicanalisi? Che Dio lo strafotto, io non posso tanto, quando mi viene non riesco a proprio che... è più forte di me, non riesco. Allora, nella psicanalisi classica freudiana ci si stende su un lettino, come sapete, no? E l'analista si mette di fianco e ti dice, dica tutto quello che hai in mente. Che liberazione. Dice, ma come, non devo seguire nessun filo di pensiero? Assolutamente no, dica quel che cavolo vuole. Allora uno che è stato abituato alla scuola, la famiglia di un tempo, parla, una volta si diceva ai bambini, parla quando sei interrogato. Alla scuola devi star zitto, perlomeno ai miei tempi. Voi non avete idea quante cose sono cambiate in questo senso. Si doveva stare con le mani conserte dietro la schiena, ma cosa è quell'altro mondo? E se devi fare un tema, devi essere coordinato. Se dici cose che ti passano per la capoccia, il maestro o il professore ti scrive alla fine fuori tema, no? Che gusto perverso avrei di tornare per fare delle cose fuori tema. Mi chiedono di parlare di Machiavelli, immaginiamo, e uno si mette a parlare dell'ultima sega che si è fatta. Cosa fa il maestro? Cosa fa il professore di fronte a questo? E io saprei benissimo come motivare. Mi ha provocato una tale, direi così, mi ha provocato una tale eccitazione questo tema su Machiavelli e su questo fatto che l'uomo non sia sottoposto ad alcuna legge morale nell'imporre i suoi ideali politici, che a un certo punto ho sentito un turbamento fisico abbracciarmi le parti del mio corpo e vabbè. Nell'analisi uno dice quel che è. Ora mettiamo che a un certo momento non trovi nulla da dire, però pensa che gli dà fastidio la scarpa, perché la scarpa è slacciata. E dice, allora, seguendo la prescrizione, al dottore dice, dottore, scusi, mi devo allacciare la scarpa, che è slacciata. Allora il dottore gli dice, perché mi dice questo? Dice, come perché? Perché mi dà fastidio se la scarpa è slacciata. Mi dica quello che le fa venire in mente. E noi cominciamo a sentire, in un'analisi intelligente, il piacere di parlare di tutto quel che vogliamo. Il piacere della involontarietà, il piacere del lasciarsi andare. Il primo Novecento quest'idea del lasciarsi andare l'ha sviluppata, e nella letteratura francese in particolare c'è stato un movimento che ha profondamente assorbito questo piacere del lasciarsi andare. Sa dire a qualcuno chi è questo, qual è questo movimento? Il surrealismo, naturalmente. Ma ancora una piccola considerazione converrà a farla. Nell'Ottocento, torniamo indietro e torniamo a uno dei grandi maestri di Proust, c'era un tizio, un filosofo, che aveva pochissima fortuna vicino all'altro che gli stava vicino. Immaginate che faceva la lezione in un'aula vicino a questa. Il filosofo che faceva lezione vicino a questa si chiamava Hegel, niente meno, pensate. Lui si chiamava Schopenhauer. Hegel aveva l'aula piena, uno share straordinario. Schopenhauer non aveva nessuno. Schopenhauer diceva questa cosa: la volontà è il male del mondo. Noi soffriamo perché vogliamo. Voi capite che questa idea, noi soffriamo perché vogliamo, era entrata un po' nello spirito di tutti, per cui a un certo momento l'idea che si potesse non volere sembrava bellissima, riposante. In fondo, se noi ci abituassimo a voler di meno, staremmo meglio. Questi sono i pensieri che aveva Proust. Ecco perché parla della memoria involontaria. Non tanto perché sia uno strumento per conquistare il tempo perduto. Perché si tratta di episodi sporadici, uno. Due, la memoria è involontaria, quindi non puoi procurartela come vuoi. Ma perché vuol far sentire quanto è importante nell'apprendimento del mondo l'involontarietà. Tu vivi con una persona che credi di conoscere. Fai ogni sforzo per conoscerla meglio. Ma a volte nell'involontarietà riesci a cogliere, cioè senza nessuno scopo, riesci a cogliere delle cose di questa persona che ti sgomentano per la loro vita. Come si va allora a raggiungere il tempo perduto, visto che la memoria involontaria è semplicemente un tema narrativo che ci fa riflettere sull'utilità per Proust della involontarietà. Chiaro? Cartesio non potrebbe essere più chiaro. Come si fa a raggiungerla? La raggiunge chi è artista e chi riesce a fare un'opera d'arte. E questo discorso è relativamente semplice. La veduta di Delft di Vermeer, che è il quadro che Proust, vi dicevo, riteneva il più bel quadro del mondo, rappresenta Delft, la città di la cittadina di Vermeer, un pomeriggio dopo un temporale, ma ancora il cielo è cupo, grigio, però ci sono delle luci. La gente vicino ai canali ha ripreso la sua attività. Allora, quando Vermeer ha dipinto quel quadro, aveva in mente una giornata precisa. Lo vedete Vermeer? Era uscito di casa. Era molto noto come pittore. Era uscito di casa, era un pomeriggio, di che giorno? Di che mese? Di che anno? In realtà non lo sappiamo. Sul secolo siamo sicuri, ma è un po' poco. Era un giorno del XVII secolo. Ma è un po' poco. Era un pomeriggio. Di che stagione? Non v'è dubbio che tutto questo fosse assolutamente identificato nel tempo. Se noi avessimo avuto delle coordinate spaziali temporali, x, y, noi avremmo potuto dire era, mettiamo, il 3 settembre 1672. Invento, naturalmente. Sta zitto. Settembre 1672. Quel paesaggio quanto è durato? È venuta la notte. Siamo in Olanda, eh? Non c'era già più quel paesaggio. Siamo d'accordo? Il giorno dopo sarebbe stato il 4 settembre. Sto inventando. Il paesaggio era scomparso completamente, era morto. Ma se tu vai al museo dell'Aia e vedi quel pomeriggio del 3 settembre 1672 è stato immortalato per sempre. Chi è che ritrova il tempo perduto? L'artista. E quindi è facendo l'opera d'arte che io riesco a fissare il tempo perduto. Un giorno Francesca e Paolo, due tizi, di cui parla Dante, nel quinto dell'inferno si sono baciati, questo non v'è dubbio. Lui l'avrà anche scopata moltissimo, ma intendiamoci, stiamo parlando del bacio, del bacio, va bene? E quel bacio sarà avvenuto in un certo giorno. Cioè, se voi andate fuori a darvi un bacio, quel bacio è una cosa, quel bacio avviene oggi, in quel minuto, in quel secondo, in quel minuto, mi auguro che sia un minuto, almeno un bacio. In questo spazio, è chiaro, in questo tempo. Un giorno Paolo e Francesca si baciavano e Dante annota le parole di Francesca. Questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Quanti anni sono passati da quel bacio? 700 e più. Ma quel bacio è lì per sempre. Quindi l'arte è il modo per ritrovare il tempo perduto. E allora ecco la risposta al titolo, alla ricerca del tempo perduto. Devo fare un'opera d'arte per fissare il tempo perduto. Portate la prigioniera e Baudelaire, naturalmente. Oh, vi ho già detto un'altra volta, scusate una comunicazione di servizio, siccome alcuni di voi a volte non vengono a lezione, dovete sapere che più di 3-4 assenze massimo, ma almeno direi, non si possono fare in questo corso.